Spent the whole day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Can it just be easy? Why does everybody need me to stay? Oh, I ain't the feeling. When you're high, but you underneath the ceiling. Good news, good news, good news. That's how they wanna hear. Allora entriamo veramente in voce per la nuova puntata di Good News. Lo facciamo con un ospite. Ciao Marco, buonasera. Ciao a tutti, buonasera. E siamo anche qua in due voci di Good News. Leo, buonasera. Yeah, buonasera, qui Fulcro. E niente, quindi una puntata, come dicevamo, dedicata al punk americano, sicuramente un genere musicale che a Radio Onda Rossa è stato insomma mandato tantissime volte dalle sue origini, probabilmente, anche se io non ero ancora nato, fino ad oggi lo sentiamo dalla selezione automatica della radio tante tante volte, e anche tante trasmissioni lo hanno approfondito. Con Good News proviamo insomma sempre a spaziare all'interno di quello che poi i generi musicali rappresentano a livello storico, politico, sociale, anche ascoltare un po' di buona musica. E quindi lascio la parola, visto che tra l'altro non è assolutamente uno dei generi su cui io mi posso sentire di avere tantissimo da dire, dare una mano ad accompagnare, mentre il nostro ospite e l'altro redattore sicuramente ne sanno più di me. Quindi iniziamo. Da cosa iniziamo? Con un po' di storia. Avvicinati il microfono un po' di più. Ecco, ci siamo? Sì. Si sente. Salve a tutti di nuovo, sono Marco. Allora, avevamo parlato e ascoltato soprattutto, credo prima dell'altra estate, qualcosa del genere, il punk inglese. Oggi ci trasferiamo dall'altro lato dell'oceano per parlare di punk. In questo momento intanto parliamo di quello che viene definito il proto-punk o pre-punk o come vi pare a voi, anche perché andiamo indietro molto, cominciamo da due città soprattutto e cominciamo da metà anni 60, fine anni 60. Le due città di cui parliamo due minuti prima di attaccare col primo pezzo sono New York e Detroit, due città assolutamente iconiche americane. New York negli anni 70, la decadenza, era una città molto complicata a quei tempi, e Detroit, la città dell'industria e dell'automobile. Parliamo di tre gruppi per cominciare, che sono nati, il primo a New York, i Velvet Underground, nella Factory di Andy Warhol nel 1965, e il loro primo album uscì nel 1967. Dall'altro lato, Detroit, nel fine anni 70, 69, due gruppi, gli Stooge di Iggy Pop e soprattutto, per certi versi, vi sorprenderò, gli MC5, un gruppo iperribelle, super politicizzato. Però partiamo in ordine cronologico, partiamo da New York, 1967, primo album The Velvet Underground, probabilmente la genesi del punk, e partiamo col primo pezzo della selezione, Venus in Force, del primo album. Let's go. Servant on the boot of shiny, shiny leather. Shiny leather in the dark. Tongue of thongs, the belt that does await you. Strike, dear mistress, and cure his heart. Severin, speak so slightly. Severin, down on your bended knee. Taste the whip, in love not given lightly. E questa era Venus in Furs dei Velvet Underground, dal primo disco del 1967. Veramente sono scioccato da quanto moderno e quanto, insomma, veramente avanti per i tempi suoni questo disco, che è proprio veramente, possiamo dire, ciò da cui tutto è iniziato. Com'era la situazione a New York in quegli anni? Ce ne vuoi La situazione, sì, certo, Leo, ti parlo della situazione a New York in quegli anni. Solo una prima parola: il primo album dei Velvet Underground fu un fiasco commerciale enorme. Questo tanto per dire. New York a quei tempi era una città estremamente decadente, estremamente povera, estremamente dilaniata da conflitti sociali legati alle, chiaramente, a la desertificazione che c'era nelle periferie urbane di New York, quindi Bronx, Queens, Harlem, e tanta droga, tanta pornografia che c'era, diciamo, dentro Manhattan. Infatti, onestamente, il tessuto sociale da cui partono i Velvet Underground è la Factory di Andy Warhol, dove onestamente la cultura veniva rovesciata e chiamiamola sadomaso, uso di droghe pesanti, e tutto quanto era diventata la normalità di un'arte in evoluzione. E chiaramente la Factory di Andy Warhol rappresentava tantissimo quello che era New York in quegli anni, una città, scusatemi un termine forse un po' banale, di perdizione, fra virgolette, di perdizione sicuramente molto complessa. Era anche una risposta a un perbenismo e a una cultura dominante, fra virgolette, dell'America, diciamo, di quei tempi, una voglia, ovviamente era anche un'America, era un'America che in quei decenni era anche attraversata da forti lotte sociali, movimenti di rivendicazione dei diritti delle comunità afroamericane, delle, insomma, naturalmente c'è l'inizio e l'esplosione del Black Panther Party, c'era ancora la guerra in Vietnam, naturalmente, quindi le contestazioni, ma più che dal lato di New York andiamo a ritrovare queste cose più dal lato, diciamo, California, dall'altro lato dell'oceano. New York aveva probabilmente un passo diverso, più legato a una sua sorta di trasgressione dal punto di vista, chiamiamola, sociale e della cultura, del sesso e di tutta una serie di cose, di rivendicazioni di questo tipo di cose, più che politica in senso, chiamiamole, strette. È incredibile che questo disco è stato un fiasco all'uscita. Fu un fiasco clamoroso, infatti Andy Warhol scappò, che era, diciamo, un grandissimo artista che tutti conosciamo, ma era anche un grandissimo commerciante. Sì, quindi scappò a razzo baleno dai Velvet Underground, perché chiaramente era un pessimo investimento commerciale. Io nella playlist ho anche un secondo pezzo dei Velvet Underground, ma forse possiamo passare all'altro lato. Quello che era Detroit, anzi in particolare Ann Arbor, dove gli Stooges con Iggy Pop si sono formati. Quindi io farei partire il primo pezzo. Siamo comunque, per contestualizzare, nel 1969, quando esce il primo album degli Stooges, prodotto da un membro dei Velvet Underground, John Cale, che era l'alter ego di Lou Reed, poi ne parleremo in seguito. Grandissima personalità, appunto, un altro grande elemento dei Velvet Underground. Bellissimo, andiamo a sentire gli Stooges. Che brano è? Il primo brano ed è I Wanna Be Your Dog. I Wanna Be Your Dog, assolutamente. Vai. Questi erano gli Stooges, Iggy Pop, I Wanna Be Your Dog, disco del 1969, qui in diretta su Radio Onda Rossa, su Good News. Siamo qui con Marco, stiamo parlando del punk negli Stati Uniti. Allora, il terzo gruppo che volevo introdurre, sono molto famosi, qui siamo a Detroit di nuovo, però un attimo, Leo mi ha fatto notare una cosa che vale la pena puntualizzare: Velvet Underground, 1967, musica più artistica, più strutturata, soprattutto per le qualità sonore di uno dei due membri fondatori di Velvet Underground, John Cale, musicista classico gallese. Legatissima all'avanguardia newyorkese di LeMonte Young, John Cage e tutta la musica, chiamiamola, elettronica sperimentale dei tempi. Lou Reed invece, l'altro fondatore dei Velvet Underground, molto più legato alla musica commerciale, lui voleva diventare famoso e fare i soldi. E invece in questa canzone degli Stooges abbiamo proprio sentito, diciamo, il punk più quello che uno tra virgolette si immagina, quello che no? Uno si immagina il punk, anche se attenzione, i Velvet Underground sono stati probabilmente molto più influenti degli Stooges, ma gli Stooges erano molto più brutali, molto più poveri, venivano da una realtà molto più operaia fra virgolette, Detroit, mentre chiaramente Lou Reed era figlio della buona borghesia intorno a New York, John Cale aveva studi universitari classici notevoli, Andy Warhol può non piacervi la sua arte, ma comunque uno che ha cambiato l'arte contemporanea e moderna certamente. Detroit invece sì, città operaia proprio. Esatto, MC5, gruppo di Detroit, politicizzatissimi, erano legatissimi al gruppo bianco che lavorava insieme al Black Panther Party, il White Panther Party, super estremisti di sinistra dei tempi, fautori della lotta armata già verso la fine degli anni 60, come Weathermen e altri gruppi americani. Abbiamo un pezzo dal vivo, perché chiaramente gli MC5 esprimevano il top della loro performance dal vivo. Kick Out the Jam. Questo è Good News 87.9 Radio Onda Rossa. Parliamo di punk americano. Vi ricordiamo il nostro numero di telefono 06 49 17 50 per intervenire in diretta, magari anche solo per farci uno squilletto di apprezzamento. The bomb, if you wanna be Kick Out The Jam, bellissima canzone, le lyrics dicono solo yeah I'm gonna kick him out, kick out the jams, incredibile, veramente la grinta, la forza, poi di questa versione live appunto è bellissimo, si sente proprio il locale, il sudore, bellissimo. Sì, dicevamo che probabilmente per chi era là dal vivo ha sentito più che altro gli strumenti, invece c'era questa voce bella fuori dal mix, diciamo dal punto di vista tecnico, perché probabilmente il microfono della voce è stato registrato separato dal resto, quindi poi dopo è stato un pochino alzato, perché invece mi immagino una di quelle situazioni in cui le chitarre distorte coprono completamente la voce. Esatto, diciamo. Pensa il soundcheck a New York o a Detroit nel 70 com'era. Ci parlavi prima dei locali storici che hanno fatto appunto questo genere a New York. Sì, i locali storici di New York. Allora, due sono i posti che hanno caratterizzato tutta, per certi versi, la genesi del punk newyorkese: il CBGB sulla Bowery e il Max Kansas City, credo che fosse sulla settima. Il CBGB, che onestamente tutto l'acronimo sta per Country Blues e qualcos'altro, quindi nasceva come un locale chiaramente di musica blues e country, ma la sua vicinanza alla prima sede della Factory di Andy Warhol lo trasformò in breve nella fucina, nel luogo. Ho letto che la prima volta che si esibirono i Ramones c'erano 10 persone a sentirli, 10 persone. Dopo ne parleremo un po' dei Ramones, che sono stati probabilmente il primo gruppo punk vero di New York, americano, e ha influenzato tutta la scena anche inglese. Comunque il CBGB, per tornare, era un locale piccolissimo, circa 100 posti, 150 persone poteva ospitare, ma si sono esibiti nel corso fra il 75 e il 79 tutti i principali artisti come Patti Smith, i Television, Richard Dell, i Ramones, gli Heartbreakers. E poi sentiremo qualcosa di tutte queste persone. Al Max Kansas City è rimasta soprattutto famoso un live The Velvet Underground postumo, molto molto bello, con una qualità sonora terribile. Senti, invece vedo qua, visto che ho la playlist molto lunga, che poi troverete sul, quando caricheremo la puntata di Good News di oggi, vi allegheremo anche una playlist estesa di ascolti di punk americano, oltre quella che riusciremo a farvi ascoltare oggi. Leggo ad esempio un nome che è appena nominato, visto che quando abbiamo fatto la puntata passata abbiamo parlato molto anche delle interpreti femminili del punk inglese. Qua leggo Patti Smith, insomma un nome gigante, se ci vuoi parlare di lei e anche insomma della questione delle donne all'interno di questo genere. In questo caso, mentre nel punk inglese le donne avevano avuto da subito un ruolo molto importante, il punk americano, devo dire, è musica bianca e musica maschile principalmente. Le due grandi interpreti che ci sono, c'era Nico, attrice tedesca che volle Andy Warhol nel primo disco dei Velvet Underground, che infatti si chiama Velvet Underground e Nico. Se qualcuno ha visto La Dolce Vita forse la ricorda, tristemente morta a Ibiza cadendo dalla bicicletta dopo una vita di tossicodipendenze. Morire cadendo dalla bicicletta sembra quasi uno scherzo del destino. Comunque, e Patti Smith. Patti Smith arriva a New York a metà degli anni 60, seguendo, diciamo, questa sua voglia di essere una poetessa, una scrittrice. Chiaramente la prima persona, le due grandi influenze di Patti Smith sono Bob Dylan, che lei conobbe prestissimo, e forse vi ricordate che quando Bob Dylan non andò a ritirare il premio Nobel ma mandò Patti Smith. E Robert Mapplethorne, il grande fotografo. Forse qualcuno, uno dei più grandi fotografi, diciamo, di quegli anni di New York. Famosissime le sue foto, diciamo, sadomaso principalmente, devo dire. Quindi Patti Smith ed esordì, il suo disco d'esordio è del 1975, si chiama Horses, ed è prodotto di nuovo dallo stesso produttore che produsse il primo album degli Stooges, John Cale, The Velvet, e John Cale produsse anche Horses di Patti Smith. L'influenza di Patti Smith è infinita. Sposò, nei primi anni 80, sposò Fred Sonic Smith degli MC5, che era uno dei suoi idoli. Quindi, insomma, devo dire che il cerchio in queste cose si chiude sempre. Visto che abbiamo cominciato, io andrei su un pezzo di Patti Smith a questo punto. Quale? Beh, direi il prezzo che apre il suo primo album, Gloria, che è un remake di un pezzo di Van Morrison. Bellissimo. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me. Me. Patti Smith, questa era Gloria, appunto scritta da Van Morrison, giusto? Però la sua versione, anche quella di Van Morrison è molto nota, però questa è veramente, insomma, è incredibile. Veramente quando le cover superano l'originale è bellissimo, secondo me, come cosa. Cos'altro ci vuoi raccontare? A che punto siamo della storia? Bada, siamo ancora molto diciamo che questi sono pezzi più lunghi. Fra un po' andremo sul punk con i pezzi da un minuto e mezzo e forse riusciremo ad essere un po' meno narrativi e un po' più musicali. Naturalmente c'è un altro pezzo di Patti Smith in playlist, che è l'unico suo vero grande successo, che è un pezzo che gli regalò Bruce Springsteen, Because the Night, che è un pezzo bellissimo, che probabilmente quasi chiunque ha sentito nella sua, nella sua vita. Forse lo saltiamo perché è molto noto. A questo punto però io andrei su quello che probabilmente è il gruppo che rappresenta meglio il punk puro, e non, diciamo che anche con Patti Smith parliamo di un artista tutto tondo. Quando parliamo dei Ramones parliamo di quattro teppisti del Queens, che si erano inventati ed edasse tutto lo stesso cognome perché gli sembrava più bello da come presentarsi al pubblico. E nel 1976 uscì il loro primo album, che si chiamava appunto Ramones, da cui ascoltiamo... Beh, veramente, comunque una grande idea, una grande idea, darsi tutti lo stesso cognome. Strana, soprattutto. Il titolo, allora, del disco e il nome del gruppo. Ho letto che uno dei quattro, non rammento chi dei quattro, si ispirò allo pseudonimo che usò Paul McCartney in uno dei suoi dischi. Ma onestamente ignoro se questa storia è vera, è solo leggenda. Ma naturalmente io c'è Blixtly Bop, che è il pezzo forse più famoso che apre il loro primo album. Tanto è molto breve, cominciare con quello. Ce lo possiamo ascoltare. Hey, oh. Let's go. Let's go! Incredibile, veramente. Sì, i Ramones, come vi dicevo, gruppo assolutamente semplice. Considerate che ho letto, di nuovo ve lo racconto come una leggenda metropolitana, quando esordirono, siccome erano talmente pippe a suonare che non sapevano fare le cover, quindi buttarono giù alcuni pezzi. Peccato che i loro pezzi duravano un minuto e quindici, quindi dopo una dozzina di minuti finivano il loro concerto e ripetevano le stesse canzoni anche 10 volte, pur di riempire quell'oretta, certo, per prendere i soldi, i $100 a testa che prendevano al tempo. Questo sempre per trovare questo parallelo che abbiamo già tracciato altre volte tra questo genere musicale qua, ad esempio la trap, che insomma è un genere musicale che abbiamo accostato al punk nello spirito, viene in tutti altri tempi, in una cultura ultra digitalizzata, globalizzata ancora di più, ultra commercializzata ancora di più, dove comunque quel grido anche ribelle e anticonformista del punk oggi non ha più quel tipo di senso di essere. C'è una questione anche sulla trap legata molto al consumo di sostanze, c'è una questione molto legata anche a un rifiuto di alcuni canoni anche estetici, musicali, sì. L'utilizzo ad esempio dell'autotune è anche la questione dei brani che durano 2 minuti. La trap ormai i brani durano pochissimo e ha anche arrivato a molto anche agli altri generi oggi questa roba, e in più i show di molti rapper, trapper attuali vengono criticati perché durano magari 40 minuti e poi anche se hanno fatto tanti brani o non li sanno fare dal vivo o Se li dimenticano mentre li fanno. Sì, o non sono performanti. Sì, cioè, quindi è. Sì, ma anche la lunghezza dei testi di queste canzoni, appunto, questa insomma è come appunto i testi delle canzoni di trap adesso, molto onomatopei, che sicuramente, cioè questo ritornello comunque dice "Hey, oh, let's go", ragazzi, cioè, non è sicuramente pavese, non lo so. Però se vogliamo, scusa Leo, se certo. vogliamo poi sentire il secondo pezzo, tanto sono talmente brevi, che viene dal secondo album dei Ramones, che loro fra il 76 e il 77 fecero 3 album al volo, velocissimi, erano talmente brevi, veramente trap canzoni. Come cosa pure esatto. questa. Quindi direi di andare su Give Me Shock Treatment, che c'è un titolo tutto diciamo molto particolare. Vai. Che viene dal secondo album, Live On. Vai, rapidissimo così, veramente. Rapidissimi, i Ramones erano rapidissimi, cioè i loro concerti erano veloci, perché in un'ora facevano tipo 38 canzoni, sì, cioè sì. cosa è quasi impensabile oggi. Comunque, ci sono altri pezzi in questa compilation estesa dei Ramones, però ve li risparmio per andare a sentire qualcun altro. Naturalmente, come vi dicevo, al CBGB tanti artisti ruotavano intorno e molti gruppi scambiavano le persone, entravano e facevano. Vi vorrei far sentire, passando su una parte leggermente più artistoide, un gruppo che si chiamano i Television, con il loro primo pezzo nell'album del 1977, Marquee Moon, il pezzo si chiama Marquee Moon. 19:27, good news. Tutti i lunedì dalle 18:45 alle 19:45, musica, culture, metropoli. In questo momento siamo nel Nord America, siamo negli anni 70 e stiamo ascoltando e provando a rivivere alcuni passaggi fondamentali della nascita del punk. Lo abbiamo fatto a New York e a Detroit, ma questa musica, insomma, si è diffusa anche altrove, non solo in queste due città, giusto? Sì, questa musica si è diffusa in tutta l'America, naturalmente, ma probabilmente l'altro luogo che ovviamente in tutta la musica americana è sempre stato presente ed è presente in tutto in America è la California, naturalmente. Passiamo da due scenari completamente diversi, peraltro, ma sempre estremamente aggressivi e potenti, secondo me. Io direi quindi California, soprattutto il posto dei college, con le prime rivolte giovanili, quindi siamo comunque verso metà anni 70, ok? È finita la guerra in Vietnam e ci sono tutta una serie di comunque di tensioni sociali. La California con questo governatori sempre molto, chiamiamoli, fintamente democratici, quindi provocano tante controversie. Quindi io comunque inizierei, ci sono 3-4 pezzi, magari li mandiamo in sequenza, ok? Così cerchiamo di condensare un pochino la musica molto aggressiva comunque, forse più c'è sole e più la musica è rumorosa. New York era molto più artistica per certi versi. Io direi di cominciare col primo pezzo, che se non sbaglio è questo dei Germs, un gruppo che io amo moltissimo. Il cantante Derby Crash purtroppo non è sopravvissuto neanche lui all'epoca delle droghe pesanti. Lexicon Devil qui su Good News, su Radio Onda Rossa. Stiamo parlando sempre di Punk USA, ma ci siamo spostati dall'altro lato degli Stati Uniti. Parlavamo di California e, appunto, come dicevamo mentre suonava il pezzo, suona subito più diretta questa musica, ancora meno earthy, meno non saprei come dire, meno intellettuale, come potevamo magari sentire qualcosa da New York, e molto più diretta, no? Ma secondo me la base è che questi gruppi nascono nei college, dove probabilmente diciamo si tendeva a voler vivere rapidamente, velocemente, e la California è un posto, no? Il surf, vi ricordate Point Blank, il film ambientato in California con i surfisti che facevano le rapine? Io vedo questa musica un po' di quel tipo. Il secondo gruppo è un sound comunque che ricorda il punk hardcore, insomma, hardcore, le origini, i podromi. Assolutamente, Michele, è corretto. il punk hardcore, che soprattutto californiano, nasce da questo tipo di musica, un wall of sound proprio, un muro sonoro inascoltabile, brutale, pezzi molto corti. Ma io ho, diciamo, un gruppo, un pizzico sempre molto forte, ma molto più politicizzati, Dead Kennedys, in questo loro holiday in Cambogia, in Cambodia. Bellissimo, vai. Tempo corre, purtroppo, quindi volevo farvi sentire almeno un altro paio di gruppi iconici di quel periodo. Uno è Black Flag, un gruppo che immagino molti di voi conoscono, forse col loro pezzo più famoso, si chiama Rise Above. Questi assoli forse è una delle prime volte che sentiamo la parte, almeno che io ho notato, proprio degli assoli di chitarra, ovviamente belli violenti, ma comunque c'era la parte di assolo. Sì, devo dire che buona parte di questo punk californiano si rifà tanto, secondo me, chiaramente venendo dopo, perché siamo verso il 78, 79, 80, venendo dopo l'ondata inglese, c'ha tanto dei Pistols, The Damned e di altri gruppi. Meno dei Clash, quei Clash erano molto più melodici per certi versi. Quindi, anche perché E però viceversa questa è un'influenza di rimando, perché non vi ho detto una cosa: nel 77 i Ramones, sull'onda del successo dei loro primi due album che ebbero un buon successo di pubblico, fecero un tour in Inghilterra, e il tour dei Ramones in Inghilterra nel 77 fu la scintilla finale, perché molti gruppi punk ebbero il coraggio di salire sul palco, perché il cantante dei Ramones gli disse: ragazzi, noi non sappiamo fare un cavolo, non sappiamo suonare, però noi andiamo sul palco e facciamo i soldi, fatelo pure voi. E molti lo fecero. Sicuramente grande provocazione. Allora, io direi di mettere questo pezzo, che invece ha una connotazione più politicizzata, di questo piccolo gruppo californiano che fece veramente due EP, si chiamavano The Deals, il pezzo si chiama I Hate the Rich. I Hate the Rich, The Deals, il disco si chiama Class War, insomma abbiamo fatto un bel excursus anche dal lato della California. Ora, visto che abbiamo fatto un bel viaggio temporale, excursus geografici, un po' di storie, non so se vogliamo concludere, come vogliamo provare a portare a casa gli ultimi 10 minuti di trasmissione scarsi, e non so se con degli ascolti siano particolarmente a cuore o qualche altro aneddoto ho fatto. Allora, io andrei a questo punto sulle carriere soliste di Lou Reed, Iggy Pop, che sono probabilmente, diciamo, i due vengono chiamati, insomma, i godfather del punk, non solo americano, di fatto di tutto il punk, di ogni latitudine, anche italiano. Allora, chiaramente possiamo, cioè io ho selezionato alcuni pezzi molto famosi, e direi che forse ci possiamo veramente concedere un paio di minuti del pezzo iconico di Lou Reed per definizione, Walk on the Wild Side. Yes, fondamentale. From Miami, FLA, hitchhiked away across USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling, but she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Allora, abbiamo tagliato questo pezzo, ma è super noto e comunque lo trovate nella playlist, anche perché vorrei in questi ultimi minuti farvi sentire almeno un accenno di sicuramente di un pezzo di Iggy Pop. Allora, brevissimo contestualizzazione: Lou Reed e Iggy Pop erano entrambi persi nei loro mondi, soprattutto i fatti di eroina, anfetamina e delusioni e problemi economici. Chi fu il loro salvatore? David Bowie, musicista inglese diventato famosissimo come Ziggy Stardust, che chiaramente produsse sia il terzo disco degli Stooges di Iggy Pop e sia Walk on the Wall Side, e sia l'album da cui è tratto Walk on the Wall Side. Ok, quindi David Bowie li salvò. E gli sentiamo, prodotto da David Bowie, il disco fatto a Berlino da Iggy Pop, e dovrebbe essere il pezzo Fun Time, tratto da The Idiot. Yeah. Allora, il tempo, mi dicono, è finito, ma forse abbiamo il tempo per un paio di minuti di un altro pezzo di Lou Reed, che ha anche un titolo che spero rispecchi quello che è successo oggi. Si chiama Real Good Time Together. Spero che abbiamo avuto insieme un real good time, ok? Grazie, allora, di averci permesso di approfondire questi artisti, queste artiste, questo genere e appunto le sue connessioni con l'America di quei tempi. Good News torna lunedì prossimo alle 18:45, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. È stato sicuramente un real good time, almeno da parte nostra. Ti ringraziamo di essere stato qui con noi. Grazie a tutti coloro che hanno ascoltato, e direi di concludere Real Good Time Together, Lou Reed, The King of New York. Yeah. We're gonna have a real good time together. We're gonna have a real good time together. We're gonna have a real good time together. We're gonna dance and ball and shout together. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. We're gonna have a real good time together. We're gonna have a real good time together. We're gonna dance that ball and shout together. Oh baby please, we're gonna have a real good time together.